eccoci qua ancora alla ricerca dell'isola di Wight in giro per l'Inghilterra e non solo. Eravamo fino a ieri a Cardiff, ovvero in Galles, ed oggi invece siamo calati e ci siamo trovati in Inghilterra, nello specifico a Bristol. Siamo arrivati da pochissimo, ma già le cose si sono fatte vedere. Intanto ragioniamo un po' sull'ultima serata gallese che ci ha visti protagonisti di cose molto interessanti. La prima, non abbiamo cenato. Gira che ti rigira, cerca che ti ricerca. Vuoi le abitudini inglesi, vuoi le nostre abitudini di perdersi per pub a farsi delle sonore e buonissime birrette, ci hanno messo in strada per l'ora di cena, almeno secondo la nostra impressione, un po' tardi, e quindi gira che ti rigira, alla fine insomma non abbiamo cenato e vabbè, amen, siamo abbastanza grassi da poter sopperire a questa mancanza. Ma la serata ieri sera è andata avanti fino ad arrivare al Tiny Rebel, che è un pub bellissimo in una costruzione che sembra quasi una cosa occupata, un occupa come direbbero gli spagnoli, in un palazzo alto 3 o 4 piani pieno di gente, incredibile, fino a notte fonda, e lì siamo stati praticamente fino a che non ci hanno buttati fuori, gustandoci ovvio delle buone birre, ma anche parlando con persone molto interessanti, ad esempio come Randy. Come lo abbiamo incontrato? Eravamo in un pub, in uno di quelle situazioni che accadono all'estero, i tavoli grossi, lunghi, dove se a sedere c'è una coppia, una persona o un gruppo di amici, ma se ancora ci sono dei posti liberi, chiunque è ben accetto di mettersi a sedere, e questa è una differenza sostanziale rispetto all'Italia, dove andiamo magari in un pub, andiamo in un posto di questo tipo e il tavolo è nostro, quindi siamo noi, ci stiamo noi e tutti si riguardano. A sedersi ad un tavolo dove c'è già qualcuno, e invece scopriamo quando viaggiamo che questo è un modo per condividere anche un po' le esperienze. Appunto, Randy chi è? Randy è un signore più o meno mio coetaneo, forse un po' più grande di me, che con moglie al seguito stava visitando appunto Cardiff, ed è un signore tedesco. Abbiamo iniziato a chiacchierare con un inglese maccheronico il nostro, maccheronico il suo, perché alla fine nessuno dei due viene dal Regno Unito, e però è quel connubio di maccheronicità che funziona e che fa sì che le persone si comprendano in qualche modo, anche se magari tirano degli strafalcioni. Insomma, con Randy c'è stata una deliziosa chiacchierata in questo pub e siamo andati avanti a chiacchierare per una mezz'oretta, fino a quando poi la moglie, probabilmente un po' scocciata dai nostri discorsi e forse un po' davvero affamata, si è congedata portandoselo via con la scusa di andare a cena, pensate voi, al ristorante brasiliano. E dico io, ma che si viene a Cardiff a mangiare al ristorante brasiliano? Mi sembra quasi di andare al Cineotto ad Arezzo a cena, no? E invece eravamo a Cardiff. Comunque loro sono andati al brasiliano e noi invece abbiamo continuato la nostra serata gallese. Come sempre non sono solo in questo viaggio, è con me ancora il socio che supporta e sopporta soprattutto le mie visioni strane delle cose e del mondo. Ma socio, qual è stata la birra che te hai preferito in Galles? In Galles io mi sono bevuto le mie Carling. Sapevo che insomma va tanto qua la Carling, perché poi insomma a me tante altre birre non mi piacciono. Non mi piacciono assolutamente le IPA, mi piacciono le birre lager più tranquille. E nulla, mi sono bevuto tanta Carling, poi ieri sera si è bevuto queste birre di questo locale occupato, fanno delle birre locali, lager, buone e molto gradevoli per essere bevute, ecco. Poche ore che siamo a Bristol e già abbiamo notato delle similitudini e tante differenze. Le similitudini, ad esempio, rispetto a Cardiff, anche sulla stazione di Bristol sventolava la bandiera arcobaleno. Sarà un motivo di costume da queste parti, però qua è così. Un'altra similitudine sono i workers, ma no, similitudine sia rispetto al Galles e anche rispetto all'Italia, perché anche qua va di moda che 4, 5 o 6 workers, ovvero gli operai, le persone con il giubbottino giallo e il casco in testa, che stanno al telefono o a mangiare un panino o a bersi una birra, mentre c'è uno di loro che porta la carretta e che lavora. E questa è stata una cosa che abbiamo notato. La differenza, ovviamente, rispetto al Galles, sono gli italiani. Poche ore qua e già abbiamo trovato la ragazza che sta al reception del nostro ostello, perché alla fine credevamo di avere un albergo, in realtà siamo in un ostello senza nemmeno l'asciugamano, senza il bagno, insomma con giusto il cessetto alla Fantozzi, e quindi questo ci creerà un po' di disagio, ma in qualche modo cercheremo di recuperare. La ragazza, dicevamo, è italiana, che saluto, Mariella. Ma non solo, rispetto al Galles tanti italiani in giro e tanti negozi italiani. In Galles ne avevamo visto forse uno solo a Cardiff, di negozi chiamati proprio con nome italiano e quindi gestiti da italiani. Invece qua ne abbiamo già visti diversi ed abbiamo veramente visitato un fazzoletto di città. Adesso ci accingiamo alla prima uscita vera al di fuori. Dentro Bristol abbiamo visto dei mercatini, abbiamo visto un bel fiume che lambisce la città, il fiume Avon, e un'altra similitudine che mi viene in mente in questo momento sono i gabbiani. Cavolo, ci sono tantissimi gabbiani a Cardiff quanto qua, è vero, non siamo lontanissimi, forse questi gabbiani da queste parti si trovano bene, non lo so. Lo scopriremo, adesso usciremo alla ricerca dell'offerta bristoliana, ma non perdiamo il focus. La nostra tappa finale probabilmente sarà l'isola di Wight, e gira che ti rigira in qualche modo auguriamoci di arrivarci. Adesso noi siamo pronti per uscire, sì, le scarpe sono ai piedi, le magliette sono in spalla ed usciremo alla ricerca di un qualcosa di buono all'interno di questa città. Vi ringraziamo per essere stati con noi anche in questa puntata all'ascolto di Radio Big World, e vi diamo appuntamento alla prossima con le nostre avventure alla ricerca dell'isola di Wight. Grazie!